aspetta qua, stiamo tirando per dove a destra la cassetta, eh. Io cosa basta 500 euro? Beh, non so le spese, ma noi abbiamo solo 120 euro di condominio, se proprio voglio dire luce, acqua, tutte queste cose da pagare ci sono. Le spese fisse, il condominio, questa cosa qui le devi pagare tutti i mesi. Anche se non hai roba da pagare extra, bisogna fare salti mortali per vivere con quello dello stipendio lì. Mi ha tirato le cinghie da parte, anzi noi siamo fortunati che il condominio paghiamo 75 euro al mese, poi si fa vedere contare la luce, l'acqua, il telefono, la televisione e tutto il resto, però quello non basta, no? Dunque ecco perché se lo ci sono, se vogliamo fare qualcosa da fare, se no io siamo arrivati proprio alle strette. Non so perché anche con uno stipendio di 1500 euro al mese campi male, abbiamo siete in due. Prima se si mettevano da parte 500.000 lire, adesso non ce la fai più a mettere da parte nulla. E questo euro ci ha ammazzato proprio, no? Non è che ci ha portato del bene, ci ha portato del male, capito? A meno quando c'era la linea, certo, con 500.000 lire, tanto campavi anche un mese, adesso con 500 euro campi due giorni. Si devi stare a comprare la roba. Adesso fra un po', 10 minuti, ci avremo tutto e ci andiamo a Nana, oggi domani siamo tutti belli freschi, vero Tore? Tutti belli freschi, non si recupera mai, faceva più giovincelli prima, era lì, adesso tanto già ricompresi. Dai, cosa recuperi, cazzo, ma cosa recuperi? Più dormi, più sono chiaro. Perché miseria, consulente eccetera, e anche perché le pompe devo staccare io e riavviare io, nessuno può toccare niente, quindi sono lì, faccio il mio lavoro, ma che tu vieni, tu hai domandati e mi dici fatto quanta gente senza fa niente, cazzo proprio tu fa, vedi che sei un numero. E una volta cose sono quelli che fanno così, purtroppo. Noi da quando abbiamo mollato giù la stazione, dopo che è morto mio padre, mi sono trovato in questa situazione pietosa, purtroppo. Come dice, morto il gatto, ne parlano i dubbi. Perché sono non siete riusciti a liberarla questa attività? È negativo perché c'erano troppi casini con le banche e con la ferrovia.